Non importa, non importa. Parla forte e la registro. Parla forte, strilla più che puoi. Allora, siamo fianco a Portopino, alla base di Teulada. Dei compagni sono entrati dentro la base da diversi punti, se ho capito bene. Alcuni dei compagni, insomma, sono davanti alla polizia, cioè siamo stati identificati. Qualcuno è riuscito a entrare? Qualcuno è riuscito a entrare? Siamo dentro la base, siamo dentro la base. Ho capito, perfetto. Abbiamo bloccato la Trident. Grandi. Il dato è che abbiamo bloccato la Trident. Grandi. È un momento molto importante. Mi dispiace, cioè è chiaro che vi hanno... Cioè, sì. Noi sappiamo già che vi avevano intimidito. Vi avevano intimidito. Il questore ha dato delle restrizioni assurde sul corteo. Hanno continuato a cercare di rallentare con checkpoint intorno a tutti i paesi, intorno alla base. Hanno bloccato tre autobus di studenti che stavano arrivando. La parte della manifestazione che era già al concentramento è tornata indietro, tutti assieme siamo andati a prendere i compagni che erano stati fermati. Al ritorno dagli autobus abbiamo girato per la campagna e siamo riusciti a prenderli di sorpresa. E adesso siamo dentro, alcuni compagni sono fuori. È una cosa molto importante, è una delle azioni più importanti che si possano fare a questo proposito. Quindi penso che con tutto il dispiegamento di forze che c'è stato sino ad ora, anche per noi era insperato. Sì. Per noi era insperato, siamo un po' increduli, ma... Beh, dipende, guarda, tanto dalla vostra forza, dalla vostra determinazione, da quanto in tutto questo periodo vi siete battute tantissimo. Guarda, noi anche ci abbiamo creduto tanto ed eravamo tutti con voi, nel senso, secondo me questo è un momento molto importante. Non è soltanto il fatto specifico di una manifestazione, ma è un esempio, è molto importante. Sì, no, è importante sotto diversi livelli, simbolico, ma non solo. Questa è un'esercitazione che coinvolge fondamentalmente tutte, non soltanto i paesi dell'Alleanza Atlantica, ma anche Australia e altri paesi fuori della NATO. Sì, no, è una sfida assolutamente da raccogliere, perché non è possibile che possano gestire la vita della gente in questo modo, no? Dai. Allora senti, noi siamo tutte con voi, noi mandiamo questa registrazione il prima possibile e qualsiasi cosa richiamami, perché la carico subito, va bene? Va bene. E allora forza, dai che qui siamo tutte con voi. Un bacio e un abbraccio a tutti i compagni e le compagne e dai. Ciao, grazie. Ciao.